Letture di Radio 24. I finiani propongono di privatizzare la RAI. In un editoriale pubblicato sul Corriere della Sera, Pierluigi Battista prova ad illustrare quali sarebbero i vantaggi, consapevole, naturalmente, che si tratta solo di un sogno. Magari fosse vero. Magari i seguaci del neonato partito Futuro e Libertà proclamassero come primo atto fondativo la battaglia per la privatizzazione della RAI, anziché un defatigante e mortalmente noioso dibattito sulla legge elettorale. Magari in Italia potessimo avere attraverso la sua privatizzazione una RAI libera e liberata. Magari. Lo Stato incasserebbe un bel po' di denaro fresco dalla vendita della TV pubblica. I cittadini potrebbero sperimentare i primi effetti di una sana riduzione fiscale, sottraendosi almeno in parte all'iniqua gabella da tutti conosciuta come canone RAI. L'informazione televisiva sarebbe pluralista, ne guadagnerebbe la libertà di stampa, perché la ricetta della libertà non sta nell'eventuale benevolenza liberale di un editore, ma nella rigogliosa concorrenza tra tanti editori. I partiti, tutti i partiti, abbasserebbero la cresta, perché non potranno più indicare lottizzati, parenti, clienti a loro insindacabile piacimento e a spese della collettività. Avremo qualche disoccupato in più, questo è vero. Rimarrebbero infatti disoccupati gli specialisti delle astruserie che da anni e anni sono impegnati a dimostrare l'impossibile, e cioè che la vendita dei pacchi e le isole dei famosi si chiamano servizio pubblico. E dovranno cercarsi un'altra occupazione anche gli inventori delle formule più fantasiose, per arginare tra una disincarnata governance ed eteree figure super partes l'inarginabile, e cioè il diritto dell'attuale editore della RAI, i partiti, a orientare le scelte, le nomine, gli indirizzi dell'azienda che è per legge cosa loro. Però assomiglieremmo di più ad altre nazioni che non demonizzano il mercato, non considerano un peccato che gli editori facciano profitti con i giornali e i prodotti editoriali. I cittadini avrebbero più libertà di scelta. Se sono di destra, possono liberarsi dal peso materiale e psicologico di pagare con il canone obbligatorio lo stipendio a Santoro. Viceversa, se sono di sinistra, da quello di finanziare Vespa o Paragone. Non avremo più pastoni, panini, dichiarazioni quotidiane di peones, portavoce e portaborse. Ci comporteremo come davanti a un'edicola. Possiamo scegliere e finanziare il giornale che più ci aggrada. Potremmo lasciare a un canale di TV pubblica tutto quello che solo il pubblico, non schiavo della logica dell'audience, potrebbe fare: teatro, lirica, mostre, libri, meteorologia, sport minori, sperimentazioni, opere prime di giovani talentuosi. Per il resto, libertà. Tutto il potere al telecomando. Imprenditori coraggiosi, se ce ne sono. Archiviazione del conflitto di interessi. Ci sarà una ragione perché Berlusconi non vuole privatizzare la RAI. Tante offerte. Giornalisti meno ingessati, partiti meno prepotenti, magari. Magari Futuro e Libertà mantenesse la promessa. Magari fosse vero. Ma forse non sarà vero. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Pierluigi Battista «La RAI privatizzata sarebbe meglio per tutti» dal Corriere della Sera del 18 ottobre. Letture di Radio 24. Il fenomeno delle bufale che si propagano attraverso la rete è sempre esistito, ma la diffusione dei social network ha contribuito ad ampliarne la portata, rendendole più difficili da controllare. Circola una nuova droga, la burundanga. Te la somministrano di nascosto, cosparsa su biglietti da visita. Ti stordiscono, rapinano, malmenano e altre efferatezze. È capitato a una donna avvicinata da un imbianchino in una stazione di servizio. Attenti anche agli antitraspiranti. Molti di quelli in commercio sono cancerogeni, come i coloranti delle merendine tanto amate dai bambini, ma a poco importa in fondo. Tanto tutti moriremo presto, nel 2012, se hanno ragione i Maya. Se no, nel 2013, per una tremenda tempesta solare. Sono tutte bufale, ovviamente. Storie fasulle, diffuse e spesso anche partorite su internet. Ne circolano da sempre, ma negli ultimi tempi c'è un boom a causa dei social network, che riprendono bufale già smentite da anni come se fossero appena sbocciate, e ritornano in auge. Spiega Paolo Attivissimo, uno dei maggiori esperti di bufale in Europa. Ne ha fatto anche un lavoro, Smentisce le bufale, con un pool di collaboratori esperti di varie materie attraverso il proprio sito web, attivissimo.net. Problema: c'è un mucchio di nuovi utenti internet italiani che sembrano connettersi solo per andare su Facebook. Vanno lì, leggono una storia strana e la passano ad altri amici. E nessuno che faccia una ricerca su un motore per capire se è vera. Le bufale prima circolavano solo via mail. Adesso vanno molto sui social network e possono essere anche in forma di video. 3,4 milioni di utenti hanno visto su YouTube a settembre una scena in cui una ragazza sembrava investita da un'auto, ma era solo marketing, per promuovere un film. Già, dietro alcune bufale ci possono essere intenti pubblicitari e commerciali. Si è scoperto che chi aveva messo in giro le bufale sulle merendine o gli antitraspiranti cancerogeni stava cercando di screditare la concorrenza, continua Attivissimo. Un medico italiano, radiato dall'albo, diceva che il cancro era causato in realtà da minuscoli funghi e lui era in grado di curarlo, con un trattamento a base di bicarbonato, che vendeva. Molte bufale nascono per scherzo, invece, come quella storica che circola ancora. Invia questa mail a un amico e Microsoft ti darà dei soldi. L'ha inventata uno studente americano nel 1997 per burla. Poi ci sono le bufale partorite forse in buona fede, ma con una buona dose di paranoia. Quelle su complotti, cospirazioni, la fine del mondo. In questo periodo sono quelle che vanno più per la maggiore, spiega Attivissimo. Segno di tempi in cui si diffida di autorità e istituzioni. Si va dagli americani hanno organizzato l'attacco alle Torri Gemelle a Michael e LaToya Jackson sono in realtà la stessa persona. Non sono stati mai fotografati insieme e se si guarda bene hanno il naso uguale. Il tutto per dire ovviamente che Michael è ancora vivo. Spesso le bufale catastrofiche nascono per avere mal interpretato una notizia su un giornale. Per esempio, si legge che un pianeta passerà vicino alla Terra? La notizia diventa «ci colpirà in pieno e moriremo tutti». Di fondo, queste bufale nascono per un misto di frustrazione sociale e per il piacere euforico di riuscire a manipolare la realtà, spiega Monica Fabris, sociologa e presidente dell'Istituto di Ricerca GPF. Una volta messe in circolo è quasi impossibile fermarle. Innanzitutto perché sono narrazioni, storie gustose, curiose, storie di cui abbiamo bisogno o di cui abbiamo terrore, aggiunge Marco Pedroni, docente di sociologia della comunicazione alla Cattolica di Milano. Di buono c'è che l'evoluzione di Internet ha dato forza non solo alle bufale, ma anche all'attività di chi le smentisce. Un nuovo fenomeno positivo sono gruppi di utenti che cercano siti per smentire bufale specifiche, conferma Attivissimo. Insomma, gli utenti Internet stanno affilando l'arma della critica e della smentita. Se ne stanno accorgendo a loro spese anche le aziende. La credibilità online è diventato un patrimonio inestimabile per tutti. Singoli cittadini, politici, aziende e così via, spiega Silvia Vianello, esperta di marketing e docente SDA Bocconi. Vale la pena di ricordarselo, prima di spargere bugie sul web, confidando nella presunta credulità della rete. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Alessandro Longo, Un web di bufale, dall'Espresso del 14 ottobre. Una scuola professionale lancia una campagna pubblicitaria provocatoria. I laureati diventano precari, i diplomati trovano lavoro. Protestano gli universitari, ma le rilevazioni fatte da Union Camere dimostrano che spesso succede proprio così. Più studi, più probabilità avrai di finire precario. A sostenere questa singolare tesi è il consorzio Enfapi, cooperativa impegnata nella formazione professionale che ha tappezzato la bassa bergamasca con una pubblicità inno al lavoro manuale e tradizionale. L'ultima provocazione nei confronti della tanto agognata laurea arriva sotto forma di un manifesto sul quale campeggia l'immagine di Andrea e Luca, due trentenni vestiti rispettivamente con una t-shirt a maniche corte l'uno e con un completo giacca e cravatta l'altro. Andrea, dopo le medie, ha studiato 3 anni, ha qualifica professionale, è caporeparto, ha un ottimo reddito, un posto fisso e vive con la sua ragazza. Luca, dopo le medie, ha studiato 9 anni. Ha un lavoro precario, cerca un posto fisso, ha un reddito basso e vive con i suoi genitori. Insomma, meno studi, più lavori. E per di più, diventi anche uno sfigato che a 30 anni vive ancora con i genitori. Ma sarà davvero così? Secondo il rapporto 2010 presentato dal Centro Studi Union Camere, il gap tra un laureato e un diplomato è effettivamente profondo. Dalle previsioni per il 2010 delle oltre 550.000 assunzioni stimate, solo poco più del 10% interessa soggetti laureati in ambito informatico, contabile, ingegneristico. Tutto il resto è da spartire tra diplomati, istituti tecnici, alberghieri e professionali, e muratori, elettricisti, idraulici e conduttori di mezzi. A ben vedere quindi, nonostante il coro dissenziente sollevatosi dagli universitari della bassa, sembra quasi che la sfida lanciata dal consorzio Enfapi non sia poi così lontana dalla realtà. Scorrendo ancora il rapporto di Union Camere si scopre un altro dato curioso. nei cosiddetti white jobs, ovvero le professioni legate alla salute, la ricerca e la progettazione, su 27.900 assunzioni è impossibile reperirne 10.700. Nei blue jobs, idraulici, elettricisti, installatori, carpentieri e falegnami, lo scarto invece è maggiore, essendo 17.600 gli irreperibili su 44.000. Dunque, per tutti quelli che operano nei settori tradizionali, non solo c'è spazio, ma ce n'è fin troppo. Uno smacco per laureati e laureandi, anche perché dalle rilevazioni di Unioncamere hanno maggiori possibilità di impiego quelli con un livello universitario non specificato rispetto a quelli con una laurea triennale. Il dato fa riferimento alla statistica elaborata nel rapporto 2010, secondo la quale ai soggetti con livello universitario, compresi quelli con specialistica, spetta il 12,5% della torta assunzioni, ai diplomati il 44%, a chi ha una qualifica regionale di formazione professionale l'11,7% e, incredibile a dirsi, a chi non ha nessuna qualificazione formale il 31,8%. Leggendo il documento redatto sembra proprio che il pezzo di carta stia diventando davvero carta straccia, che il lavoro intellettuale sia superato e il tempo passato sui testi, tra sudore e sangue, sia tempo sprecato. Meglio allora seguire il consiglio del consorzio Enfapi, ritornare a quei lavori dimenticati o messi da parte, lasciar perdere esami e corsi e cominciare da subito a rimboccarsi le maniche tra presse, tubi e installazioni. Chissà cosa ne pensano gli operai cassintegrati scesi in piazza a manifestare per un lavoro. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Salvatore Garzillo, Pubblicità Progresso, chi studia finisce precario, da Libero del 16 ottobre.